aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi sole, chi sole, e che faccio cuore vivo? Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. In povertà mia lieta, caro da gran per sogni e per chimere e per castelli in aria l'anima migliorania onore del mio sogno s'avverà se un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso diventi tutta c'è Aida tornar di là un ricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto celeste

Spettacolo divino, intera di cor. Tu m'appartieni, tu m'appartieni a me, a me.

l'attendo, ardente spira, oggi l'evento dell'amore. A quel cuore che santi. L'arte nel suo mistero le diverse bellezze insiem confonde.